Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Something's got a hold on me, yeah. I'm a feeler. Buonasera, buonasera a tutte. Non si sente? Sì, si sente, io mi sento nella cuffia. Buonasera a tutte e benvenute alla nostra 290esima trasmissione di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. In radio stasera siamo Caterina che vi sta parlando, e insieme a me c'è Stefania e Lucilla. Ciao. Allora, stasera, se siamo poi sicure che sta andando in onda la trasmissione, io non ne sono poi così tanto sicura, magari mandateci un colpo di telefono per dirci se ci state ascoltando o meno. Stasera, se tutto va bene, vi proponiamo la conoscenza, per coloro che ancora non dovessero averla già, di due webserie che hanno riscontrato molti consensi. Si tratta di LSB The Series e Relazioni a Catena. Dietro un forte suggerimento di Stefania, che personalmente ringrazio per averci così tanto, per aver così tanto insistito, abbiamo ritenuto come una valida opportunità parlare di questo argomento, perché significa proseguire la nostra analisi sulla rappresentazione che, ricordo, abbiamo iniziato lo scorso anno. Trattandosi di un argomento che sicuramente molte di voi conoscono, vi ricordiamo che potete intervenire a questa trasmissione scrivendo un SMS al nostro numero di cellulare, che è il 339 853 6270, che resterà acceso fino alla fine di questa puntata. A questo punto non ci resta altro che augurarvi buon ascolto e iniziamo subito con un brano musicale. Si tratta di La signora del blues, dalla splendida voce di Dee Bridgewater. Questo brano è tratto dal CD Eleonora Fagan 1915-1959, che la cantante ha dedicato a Billie Holiday. Allora, buon ascolto e sentiamo Dee Bridgewater. To know just what the blues is all about. Lady sings the blues. She tells her side, nothing to hide. Now the world will know just what the blues is all about. Well, the blues ain't nothing but a pain in your heart when you get a bad start, when you and your man have to part. Gonna sit around and cry no more. I know I won't die because I love him more. Lady sings the blues. She's got them bad. She feels so sad. And now the world will know she's never gonna sing them no more. Thank you. lady sings the blues no more. Lady sings the blues no more. Yeah, yeah. Lady sings the blues no more. Lady sings the blues no more. Lady sings the blues no more. No more, no more. Jada da da da da da. No more, da da da da da. No more, da da da da da da. No more, da da da da da da. No more, no more. Oh, oh, put it down, yo. Put it down. Let it sing the blues no more, no more, no more, no more, no more. Buonasera. Questa sera vi parliamo di due web serie, LSB de Serie e Relazione a Catena. Proseguendo il discorso iniziato lo scorso anno sulla rappresentazione, abbiamo deciso di ragionare insieme a voi su queste due serie, che sono sia la punta di un iceberg di un mondo innovativo e libero, che rimane semi nascosto al grande pubblico della TV generalista, ma sia anche fenomeni che da internet escono fuori, dando luogo a serate in discoteca e quindi a gruppi che nascono in relazione e grazie a loro. Iniziamo col dire che cos'è una web serie. Anche se la maggior parte di voi sa di cosa parliamo, lo chiariamo per qualche sorella giurassica che ci sta ascoltando. Come recita Wikipedia, il termine web serie indica degli episodi di fiction realizzati per essere fruiti tramite internet o anche sui cellulari di ultima generazione. La prima webserie è andata in onda nel 1997. Da allora si sono moltiplicate e sono sorti numerosi festival che premiano le più apprezzate. Uno di questi si è svolto a Roma, il Web Fest proprio si chiama, e è finito a settembre. La webserie si differenzia in vari modi da quelle trasmesse sulla TV generalista. In primo luogo la durata media è molto più bassa. Una puntata di LSB dura 10 minuti circa, mentre il vecchio Friends durava circa 20 minuti. Altro punto fondamentale è la fruizione. Mentre una serie TV classica entra letteralmente nelle case dei telespettatori e in un certo senso quindi le invade, la webserie è, se vogliamo, più discreta. Lo spettatore, o in questo caso un internauta, deve andarsela a cercare. Altro punto fortemente innovativo è che talvolta il pubblico partecipa economicamente alla produzione. Può capitare che i primi episodi siano autoprodotti e poi si cerchino sponsor tra i singoli fan e non solo. Viene da sé che una produzione di questo tipo, se da una parte penalizza economicamente ed anche per questo la durata media è così bassa, dall'altra lascia aperti spazi di creatività e libertà di gestione impensati nella TV generalista, anche per grandi autrici o registe. Ed è proprio qui che nasce la nostra riflessione. Quando lo scorso anno vi abbiamo presentato il documentario Diversamente Etero su due protagoniste del Grande Fratello, il Grande Fratello 10 per capirci, il dibattito al nostro interno è stato molto serrato. E quello che ci domandavamo era questo: perché presentare un documentario, sì, anche valido, ma che ci presenta il fenomeno, che presenta il fenomeno del Grande Fratello che è così becero? Perché parlare di due ragazze che danno una rappresentazione negativa del nostro mondo, tanto al punto tale da non definirsi mai lesbiche? A queste domande abbiamo risposto nella trasmissione dello scorso anno, che se volete potete riascoltare sul nostro sito oppure le potete trovare su Facebook. Oggi vi vogliamo invece presentare due serie dove la nostra rappresentazione è positiva, è credibile e che non hanno intenti politici, ma che sono di puro intrattenimento. La diversità con il fenomeno del Grande Fratello è appunto nella rappresentazione positiva, ma altri sono i punti di rottura e ancora altri sono anche punti di contatto. Mentre gli eventi del Grande Fratello si sono forse creati spontaneamente, ma invece sono stati cavalcati ad arte, hanno avuto la pretesa di realtà, le due web series, o come si legge, si presentano subito in modo meno ambiguo, sono fiction, cioè sono finzione, e quelle di fronte a noi sappiamo che sono attrici. Sembra scontata questa riflessione, ma porta con sé tutta una serie di sensazioni. Cioè, dobbiamo pensare che le lesbiche sono effettivamente come quelle rappresentate dal Grande Fratello? Noi non lo pensiamo, ma questo ragionamento forse non arriva al grande pubblico. Ma il punto di contatto tra i due fenomeni lo troviamo nei gruppi più o meno spontanei che hanno creato. Entrambi hanno viaggiato nella rete e sono giunti molto lontani, ed entrambi hanno creato gruppi più o meno spontanei, questi davvero reali, nel senso che le donne si sono incontrate in serate in discoteca, in locali, tutto questo per seguire le loro beniamine. Questa nascita di gruppi è quello che ci affascina e ci appassiona, la TV che finalmente fa uscire di casa e incontrare le persone, quindi non si fermano lì. Iniziamo quindi a descrivere le serie. LSB The Serie è stata realizzata da Geraldine Ottier e Floriana Buonuomo, che l'hanno scritta, filmata e autoprodotta. È presentata nel video promo come la prima webserie lesbica italiana. La prima stagione è composta di 12 episodi di 10 minuti ciascuno, che si possono reperire facilmente su YouTube. Si narrano le vicende di 5 ragazze che vivono a Roma. Alcune sono studentesse universitarie, altre da poco entrate nel mondo del lavoro. Insomma, ragazze che iniziano a scontrarsi con la vita vera, che cercano di costruire la propria identità e di farla andare d'accordo con quello che la società chiede. Sono Nick, bella e tenebrosa, sicura di sé e che passa da una relazione all'altra. Giulia e Martina, che stanno insieme da 2 anni. Giulia sa chi è e quello che vuole. Martina, confusa sul suo futuro, convinta del suo amore per Giulia, ma incapace di accettarlo nella sua vita. Benedetta, insicura e timida, scopre a poco la sua identità. E infine Filomena, bisessuale, irruenta e l'anima comica della serie. Dal sito web, peraltro molto curato, scopriamo che le autrici lavorano insieme in un video noleggio e hanno realizzato la serie nelle poche ferie a disposizione e nei ritagli di tempo. Volevano realizzare un sogno, dicono loro stesse, sfidare il silenzio e gli stereotipi che ancora vertono sulle lesbiche. Hanno girato, montato e autoprodotto il loro lavoro per essere sicure di concludere tutta la serie e non incorrere in mancanza di fondi. La serie, dal punto di vista del marketing e della diffusione, è molto curata. Il logo usato, sfondo rosa e 2 silhouette di donna con il simbolo matematico dell'addizione, colpisce e rimane in mente. Sono stati realizzati dei backstage, dei video promo, anch'essi molto corti, al massimo di 2 minuti, delle serate in giro per l'Italia, tra cui una al Circolo degli Artisti di Roma, in cui è stata proiettata l'ultima puntata della prima stagione. Inoltre sono state ospiti di San Prefer Cake appena concluso. Un video con Giulia Anania, che canta la sigla, di Testa, Le ragazze non dormono, spiega bene la filosofia che sta dietro il lavoro. Dunque, le ragazze non dormono, come dice Giulia, perché vogliono fare l'amore, vogliono ballare, vogliono uscire, vogliono divertirsi e non vogliono smettere di sognare. Giulia sottolinea quello cui accennato prima, il modo positivo e naturale in cui è rappresentata questa comunità di lesbiche, e auspica che questa modalità di raccontarla possa far cambiare la mentalità delle persone più di tanta politica e televisione spazzatura. Cioè, in parole povere, presentare una figura positiva, o comunque un modo, una rappresentazione positiva, può far entrare, no, nella mente la normalità, no? Esistono, ci sono, boh, punto. Nel video è evidente ancora l'aspetto di interattività che manca alla TV generalista. Infatti Giulia chiede alle fan di girare brevi filmati con la canzone in sottofondo, con l'intento di fare un collage con tutti quelli inviati. E quindi qui il coinvolgimento diretto, no? Molto interessante. Se ripenso ai miei ricordi universitari, dice Stefania e non Lucilla, io se devo ripensare ai miei ricordi universitari mi perdo nel giurassico veramente. La mia vita era proprio così, cioè tra le mie amiche c'era una Nick, una Giulia, una Martina. Allora, la forza di questa web serie è proprio questa, cioè di rispecchiare i nostri vissuti. Siamo proprio noi quelle sullo schermo, sono le nostre amiche, le nostre amanti. È una rappresentazione positiva e realistica, aggiungeremmo, del mondo lesbico, e per questo ci possiamo identificare. Senti, non ci identifichiamo troppo, facciamo una breve pausa musicale. Io direi di mandare un'altra bellissima voce di Daido, e il brano si intitola Don't Think of Me. Oh yeah. See, you're with her, not with me. I hope she's sweet and so pretty. I hear she cooks delightfully. A little angel beside you. You're with her, not with me. Oh, how lucky one man can be. I hear your house is smiling clean. Oh, how lovely with your homecoming queen. Oh, how lovely it must be. Bene, vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87.900 MHz di Radio Onda Rossa. Avete la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio che è www.ondarossa.info oppure tramite il sito ufficiale del CLR che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta e ci sono anche altre indicazioni per contattarci qui in radio fino alle ore 22 allo 06 49 17 50 oppure con un SMS al numero 339 853 6270 oppure con una mail a contatti@clrbp.it oppure visitando la nostra pagina Facebook del CLR, il nostro sito che è www.clrbp e per finire con una lettera, una antichissima lettera ma sempre gradita, indirizzandola a CLR presso Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Ricordate che i francobolli sono sempre in vendita, eh? Esatto, ma è anche molto bello leggere su carta. Relazione a Catena è una web serie realizzata dalle Badol, un'associazione culturale di Torino, nata nel 2001. Le Badol sono un gruppo. Badole, scusate. No, gli accenti ci tengono molto perché sono piemontesi. Quindi... Badole. Badole. Gli accenti sono sempre difficili. Le Badole sono un gruppo di 5 donne militanti, resistenti e insistenti, come scrivono nel loro sito. Realizzano piccoli film che parlano di diritti, di donne, di lavoro, di discriminazioni. Tutto questo condito da ironia, perché, come recita uno slogan a loro caro, una risata vi seppellirà. Alcuni numeri che ce le descrivono: hanno realizzato 8 cortometraggi, 3 documentari, uno spot pubblicitario, hanno partecipato a 80 festival nazionali e internazionali e vinto 26 premi. Anche loro sono state ospiti a Son Prefer Cake e al Fuorisalone delle Lesbiche. Relazione a Catena è la loro unica webserie. Ricordiamo con una punta di orgoglio che sono intervenute anche ad una serata molto riuscita del Quesbilè dello scorso anno, dove sono state proiettate le prime puntate. Le Badole prediligono una produzione dal basso, cioè cercano finanziamenti tra le proprie fan per realizzare la serie di cui per ora sono in rete i primi 4 episodi. Ecco infatti cosa si legge nel loro sito. Nuovi produttori cercasi. Molte persone che hanno seguito con entusiasmo Relazioni a Catena ci hanno chiesto come poter contribuire per terminare la serie, ma anche dove poter vedere La Capretta di Chagall, uno dei nostri corti più recenti. Abbiamo quindi pensato che proprio La Capretta avrebbe potuto aiutarci a continuare la relazione. Abbiamo lanciato una nuova campagna di finanziamento dal basso su Indiegogo, con la partecipazione della nostra Capretta come inviato speciale nelle case di tutti i donatori. Andate a dargli un'occhiata. E allora, sempre sulla stessa pagina, ci comunicano che stanno cercando il finanziamento per i prossimi 4 episodi. Questo ce lo dissero anche alla serata ben riuscita di Quesbilè dell'anno scorso, come vi ha ricordato Stefania. E questi 4 episodi dovrebbero chiudere la serie e ci danno i numeri delle donatrici e dei donatori e la quota finora raggiunta. Insomma, trasparenza e coinvolgimento totale verso le proprie fan. L'idea per la serie è nata da un'apparizione in TV di Paola Maggeri sulla 7, che presenta il loro È femmina, no? Scelto quest'anno tra i corti finalisti del programma notturno, la 25esima ora, il cinema espanso e lo presenta in questo modo. E ora un cortometraggio che potrebbe essere una perfetta puntata zero di una serie TV. Da qui l'idea, poi lo stesso cast del corto e, come dicono loro, l'indignazione per un mondo a senso unico e il desiderio di raccontare gli affetti, il lavoro e la famiglia così come ci appaiono. Una sequenza di reazioni e relazioni a volte sorprendenti. Passi della Lapa pelos arco-íris dos seus arcos mais explícitos, pelo claro escuro, pelo som impuro, obscuros becos, claros dígitos. Ma di cosa tratta Relazioni a catena? È la storia di Silvia, ricercatrice universitaria, che si ritrova in casa le due nipoti, una in piena crisi adolescenziale e l'altra ancora piccola. La madre è sparita e così lei deve occuparsene con l'aiuto della donna di servizio e le intromissioni di una madre invadente. E dovete crederci, è noi che l'abbiamo visto. È esilarante, veramente carina da morire. Tutto questo mentre incrocia quasi per caso, nei vari episodi, una giovane ragazza manager super impegnata nel lavoro. Sarà la donna della sua vita? E bisogna finanziare questo progetto per andare a scoprire se è così. Quindi noi ve lo chiediamo. Passi pela Lapa pelos arco-íris dos seus arcos mais explícitos. Allora, stasera abbiamo voluto sottolineare la necessità della rappresentazione e dell'autorappresentazione, ovviamente facendo una differenza tra loro, no? Queste tematiche sono spuntate sovente fuori nei discorsi con le amiche, in cui si è spesso ipotizzato, con modalità ed intenti diversi, di realizzare noi qualcosa che ci rappresentasse, tipo una Leala Viola o una Lesbiful, ad esempio. E questo è un tema che è sempre appartenuto a noi donne lesbiche, che almeno io me lo ricordo nei tempi giurassici e come sentite anche Kate. Sì, ma lo giurassica ricorda. Anch'io, è questo che stai dicendo, vabbè. No, non mi permetterei mai, l'hai detto tu. E quindi è un altro modo di stare al mondo e solo noi possiamo raccontarlo. E quindi vi invitiamo ad andare a visitare questi siti e a contribuire per la realizzazione delle altre puntate. Per tutte e due, perché pensiamo comunque che siano esperienze interessanti e modi veramente di far uscire la televisione dalla televisione e farla diventare veramente in carne ed ossa qualcosa che ci rappresenti veramente. Anch'io mi voglio unire a quello che ha detto prima Caterina, perché l'idea del web series è stata di Stefania. E io non avevo visto, per esempio, Le Badole, mi erano piaciute infinitamente, abbiamo subito immediatamente finanziato lì mentre stavamo in corso d'opera nella situazione, con loro presenti che davano le motivazioni di questo lavoro, convinte, e poi piano piano te lo scordi, mentre Stefania ha avuto il pregio e l'onore di farci tornare su questo aspetto e quindi su questi ragionamenti. E quindi in questo modo, così come sono stati fonte del nostro dibattito interno, ve lo abbiamo riproposto così com'era. Senti, io adesso direi di mandare una nostra amichetta che canta, e si tratta di Kik Di Leng con il brano Miss Chatelaine. Just a kiss, just a kiss, I have lived just for this. I can't explain why I've become this chatelaine. Just a smile, just a smile. Hold me captive just a while. A smile, hold me captive just a while. Bene, noi la trasmissione l'abbiamo praticamente quasi finita, nel senso ci sono rimasti giusto due appuntamenti da ricordare molto importanti. Il primo si svolgerà questo venerdì, no, il venerdì 15, ed è il nostro consueto appuntamento Kesbilè. Una grandissima serata di tango, ma non solo, quindi ognuna di voi è invitata a partecipare, perché ci sarà sicuramente da divertirsi tanto. Poi magari i dettagli dell'iniziativa li diremo più avanti. Intanto tenete a mente questa data, il 15 di novembre, a partire dalle ore 21 alla serata Kesbilè. L'altro ce lo dice Lucilla? Allora, invece il 22 di novembre, quindi sarà un venerdì, dalle 18 in poi alla Casa Internazionale delle Donne, alla Sala Simonetta Tosi, avremo il piacere enorme di presentare un libro uscito postumo purtroppo di Alessia Ballini, che è la sua tesi di laurea. Il titolo del libro, che è stato pubblicato adesso praticamente, è Ho comprato la mia libertà, ed è un'analisi che Ballini fece sulle opere di Virginia Woolf, ma da un punto di vista estremamente interessante, ed è per quello che vi chiamiamo a intervenire numerose, e cioè sul piano della ricerca dell'autonomia, l'autonomia economica, e quindi perché lei si impegnò nella sua vita a scrittrice, ma non solo come scrittrice che produceva, ma anche come giornalista che faceva recensioni di libri di altre e di altri, e poi del perché, quindi l'autonomia economica e noi diremmo oggi l'autodeterminazione, quindi un'autonomia anche da centri del potere che a quel tempo, forse più di ora o forse in maniera diversa, erano comunque maschili, e quindi al fatto che lei insieme al marito, ma fortemente voluto da Virginia Woolf, creassero una loro casa editrice e che poi pubblicava non solo e non esclusivamente i romanzi di Virginia, ma romanzi di giovani donne e giovani uomini che diversamente non avrebbero visto pubblicazioni. E quindi poi di come all'interno dei suoi scritti, Le tre Guinee per esempio è uno, ma anche una stanza tutta per sé, o La stanza di Jacobs e via discorrendo, ecco, in questi libri come lei analizza proprio i centri del potere e come uscirne fuori. Ecco, quindi l'ipotesi di Ballini, che Ballini fa sulla la vita di Virginia Woolf come scrittrice e la ricerca che lei attraverso questa forma di produzione fa per la propria autodeterminazione, per la propria libertà, è per questo che il titolo è Ho comprato la mia libertà, è molto interessante. E quindi vi rinnoviamo questo nostro invito come wolfista che parlerà del libro. Ci sarà Giovanna Olivieri e insieme Elena Biagini, che voi tutte conoscete. E poi noi del coordinamento Lesbiche Romane, che con un estremo piacere presentiamo questo libro. Ricorda la data? La data è il 22 di novembre, l'appuntamento è alle ore 18 alla sala Simonetta Tosi della Casa Internazionale delle Donne di Roma. Ok, e l'altro appuntamento invece, ha detto prima, era... Era quello del Kesbilè, 15, sì, il 15 per il Kesbilè, e poi vi anticipiamo che quest'anno ci siamo date come chiusura d'anno alle presentazioni dei libri, e poi avremo il piacere. Un'altra sorpresa più avanti. Più avanti, e questa sarà il 6 di dicembre, però sarà la presentazione di un libro, di un romanzo e di un romanzo comico. Per ora non vi diciamo altro. Assolutamente no, lasciamole con la suspense. Intanto per chiudere, a parte che noi salutiamo. E vi diamo appuntamento come al solito al terzo martedì, quindi al 19. Io sono Caterina, vi saluto. Ciao Lucilla, come al solito la giurassica. Ciao da Stefania, sì, la giovane. Ascoltiamo un'altra ultima canzone breve di Carmen Montoya, Ai Ai, e poi andrà la nostra sigla. Ciao a tutte e buon ascolto.